primo episodio del podcast Sprigiona il tennista che è in te. Ciao, oggi sono qui con Mario Quattrocchi, maestro nazionale fit dello Taormina Sporting Club da ben 10 anni, da quando nel 2006 ha preso la qualifica di istruttore di primo grado fit, nel 2010 quella di secondo grado e infine quella da maestro nazionale. Come giocatore Mario ha ottenuto la classifica di 2-6 come migliore classifica della sua carriera agonistica e partecipa con i suoi compagni di squadra al campionato di Serie C. Nel 2010 Mario ha vinto i campionati siciliani di terza categoria e questo è il risultato che ricorda con maggior piacere nella sua carriera. E questa è una cosa che ci tengo a dirtela e devi sapere che Mario, prima di essere un grandissimo professionista del settore, è soprattutto una grandissima persona e il rapporto che ho stretto con lui sin dai primi giorni del corso della Scuola Nazionale Maestri è diventato sin da subito molto stretto e per me è un amico vero, e anche se la distanza non ci permette di vederci spesso, e comunque la nostra amicizia è rimasta, rimane e rimarrà forte, e perché mi devi credere, è una di quelle persone che vale la pena di conoscere e te ne accorgerai con il passare di questa intervista. E quindi questo mi sentivo di dirlo prima di cominciare, e grazie Mario per la partecipazione. Grazie a te Tiziano per la presentazione. Dopo questa presentazione che mi hai fatto, minimo ti devo ospitare una settimana a Taormina. Troppa pubblicità, sei troppo buono come sempre. No, mi sentivo di aggiungere questa postilla che ovviamente essendo le prime interviste un po' mi sono abbozzato, però ho scritto con col cuore, diciamo, è quello che penso, quindi ti ringrazio per essere qua. Ti ringrazio, la stima è reciproca e tutto quello che hai detto insomma vale anche per te. Perché quando abbiamo avuto l'occasione di conoscerci lì nei centri federali, prima a Roma e poi insomma in giro un po' per l'Italia, ho avuto modo di conoscere, come detto tu, prima che un professionista, una persona in gamba che al primo posto mette la passione nel suo lavoro. Ed è proprio questo che penso che ci accomuna, perché stiamo tante ore durante il giorno nel campo, però se non avessimo questa grande passione probabilmente non avremmo questo successo e questa forza che ci spinge ad andare ogni giorno avanti. Quindi grazie delle tue parole e ricambio tutto quello che hai detto. Grazie Tiziano. Grazie a te Mario, grazie a te. E come sai Mario, e così lo spiego anche ai giocatori e appassionati che ci stanno seguendo in questa intervista podcast che ho intitolato Sprigiona il tennista che è in te, è un nome particolare ma penso simpatico. È proprio quello di aiutare la maggior parte dei giocatori appassionati nel condividere, portare a conoscenza e a coscienza le diverse esperienze di coach, maestri, mental coach, preparatori fisici nel mondo del tennis, e così che possano carpire anche loro, diciamo, quei piccoli segreti e uscire dal circolo tennis isolamento, diciamo, e contribuire alla, cioè se riusciamo ovviamente contribuire alla crescita e al miglioramento del loro tennis, ecco. Quindi questa è la missione di questo podcast. Ma io sono sicuro che ci riusciranno, anche perché vedendo il tuo sito, il tenniswinnergame.com, devo dire che ci sono tantissimi spunti da cui partire, da cui prendere esempio, quindi sono convinto che con questa tua rubrica interessantissima darai modo a tantissimi ragazzi e tantissimi appassionati di trovare la soluzione per il loro tennis, ecco, mettiamola così. Bene, benissimo. E come ti dicevo prima, Mario è di Taormina, quindi allena e maestro in Sicilia, e quindi volevo subito passare alla prima domanda. Mario, ti volevo chiedere come prima domanda di raccontarci un po' del movimento Tennis Sicilia e se c'è, quali sono i giocatori e le giocatrici che si stanno distinguendo per livello di gioco e risultati, sia pro che juniores. Ah, guarda, diciamo, la Sicilia è un movimento tennistico, diciamo, sempre in forte crescita. Non lo dico perché sono di parte, ma la nostra isola ha sempre prodotto giocatori di altissimo livello. Potrei citare sicuramente Alessio Di Mauro, che è stato numero 68 del mondo ed ha partecipato anche alla Coppa Davis vestendo la maglia azzurra. Ma come non parlare di Marco Cecchinato, il nostro giovane atleta siciliano, che proprio ieri nel torneo Master 1000 di Monte Carlo si è dovuto arrendere a Raonic con il punteggio di 6-3, 7-5, ma disputando una bellissima partita, ed è stato tra le altre cose convocato anche poco tempo fa in maglia azzurra. Tennis siciliano a livello giovanile sta producendo tantissimi risultati. L'anno scorso i fratelli Fausto e Giorgio Tabacco, che si allenano a pochi chilometri da casa mia al tennis Della di Messina. Sono allenati dal maestro Gino Visagli e Francesco Caputo, si sono laureati appunto campioni d'Italia di categoria e stanno ottenendo risultati importanti. Anche Fabrizio Andaloro, un altro ragazzo 2001, partecipa a diversi tornei in giro per l'Europa e devo dire che stanno portando bellissimi risultati. Per quanto riguarda il tennis femminile, posso parlare sicuramente di Miriana Tona, una ragazza 1995 che ha avuto il piacere di allenare fino all'età di 12 anni e che ha vinto il torneo dal Contres, un torneo internazionale che si disputa qui proprio al Tennis Bella di Messina nel 2005 e adesso si trova con classifica WTA intorno alla 800esima posizione. Quindi anche sotto il profilo, diciamo, femminile, la Sicilia continua ad avere risultati. Anche nelle competizioni a squadre, nella Coppa d'Inverno l'anno scorso abbiamo perso in finale contro la Toscana, però ogni anno devo dire che la Sicilia porta avanti un movimento importante, come d'altra parte tutte le regioni d'Italia. Secondo me il tennis in Italia in questi ultimi anni sta esprimendo un livello di gioco tennistico molto alto e sono sicuro che tra poco avremo anche noi il nostro campione e la nostra campionessa di casa. Verissimo, verissimo Mario, io devo esserti sincero, ho seguito maggiormente il tennis siciliano maschile, anche perché soprattutto a livello juniores, perché due anni diciamo passati al Tennis Club Riccione giravo con i miei ragazzi e parlavano molto dei due fratelli Tabacco, che ho avuto anche il piacere di conoscere, di incontrare a Tirrenia, e quindi conosco direttamente il livello juniores. E per quanto riguarda il livello pro, ho visto Cecchinato facendo anche da intervistatore anche lì all'Adriano. Ti ho seguito. Mi hai seguito anche lì. E ho avuto il piacere di vederlo a Pesaro quando l'Italia ha battuto la Svizzera in Coppa Davis. Quindi sicuramente un movimento che si sta distinguendo, che sta facendo molto bene. E poi è vero che anche Roberta Vinci si allena a Palermo, giusto? Ah, Roberta si allena a Palermo. Sì, devo dire che ormai lei è adottata a Palermo, ha raggiunto ottimi risultati allenandosi proprio lì. Poi lì è nato per gioco, molti non lo sanno, però Roberta aveva avuto un periodo un po' così, è andata a Palermo per allenarsi e lì, grazie a Cinà, ha trovato di nuovo la serenità per andare avanti e sta ottenendo risultati importantissimi, quindi ce la teniamo noi, anche se lei scherza a parte, è pugliese, però è siciliana adottiva, sì, come hai detto tu giustamente, si allena a Palermo e sta facendo ottimi risultati, veramente sono molto contento per Roberta, ma tutte le ragazze italiane stanno facendo ottimi risultati, quindi speriamo noi maschi di raggiungerle. Mi andava di annoverare anche Roberta Vinci, Mario, fatto perché, bene, fatto bene. Non essendo siciliana, però so che si allena a Palermo, quindi sì. Ci sta. E bene, quindi dopo questa panoramica sul tennis Sicilia, volevo restringere un po' il campo d'azione andando proprio a vedere il tuo circolo tennis, ma prima di questo volevo sapere concretamente, entrando dentro il campo con te, nelle tue lezioni, qual è il tuo metodo di allenamento, ovvero so che non è facile scegliere tra le quattro aree da migliorare se ne dovessi deciderne una, però ti sto chiedendo appunto su cosa ti concentri maggiormente nelle tue lezioni, anche a livello di clienti individuali o comunque con gli agonisti, tra le famose quattro aree: tecnica, tattica, fisica o mentale, qual è l'area alla quale dai maggiore precedenza? Allora, come hai detto tu benissimo, tutte le quattro aree sono fondamentali, come abbiamo studiato durante il corso maestro. Io credo che la più importante, non che le altre lo siano meno, però quella a cui faccio riferimento in maniera maggiore è l'area mentale. Credo che tutta parta da lì, parta dalle motivazioni che ognuno di noi ha, perché se stai bene con la testa, se hai gli obiettivi importanti, la testa ti aiuta in tutto, cioè se non hai la mentalità corretta di fare gli esercizi, di allenarti, di metterti in discussione, tutto passa in secondo piano. Quindi per quanto mi riguarda l'area mentale è la più importante. Per quanto riguarda me, cerco di confrontarmi sempre con chi ho davanti, ecco, non cerco di essere sempre uguale con tutti. Secondo me un maestro di tennis deve essere bravo a chiedersi chi sta di fronte a te cosa vuole, cosa cerca e qual è quello che tu puoi dare a lui. E quindi la domanda che mi faccio, la prima quando ho un cliente davanti, è cosa vuole questa persona da me. Quando si tratta di clienti individuali sicuramente cerco di mettere in atto tutto quello che ho vissuto nei campi da tennis, quindi sicuramente la passione, perché comunque una persona che si avvicina al tennis vuole sicuramente divertirsi. Quando parliamo di agonisti, cerco di capire il ragazzo quello che mi può dare, cerco di entrare nella sua testa e una volta entrato ci cerco di far riuscire il suo tennis al 100%. Quindi ti ripeto, sono tutte e quattro importanti le aree fondamentali, però se dovessi sceglierne una dico l'area mentale. Bene, mi sono venute in mente altre due sottodomande su questa domanda, perché mi hai parlato appunto di area mentale, sai bene insomma che la mia tagline è il tennis a portata di mente, quindi è un metodo, è un sistema di allenamento che si basa su ritmo e concentrazione, quindi volevo chiederti come prima sottodomanda se c'è stato, in che modo alleni concretamente in campo l'area mentale con i ragazzi. Io posso portarti l'esempio di un ragazzino che quest'anno è under 12, è stato anche diciamo oggetto della mia tesi. Io la mia tesi l'ho improntata sull'importanza degli spazi di gioco e degli attrezzi. Avevo un ragazzino di 10 anni che stava perdendo interesse, non giocava molto bene, giocava le sue partite così nel campo grande, non riusciva a esprimersi al meglio. Perché l'abbiamo portato a un raduno, l'abbiamo fatto giocare nei campi piccoli, questo bambino ha cominciato a fare ace, ha cominciato a fare serve in volley, ha cominciato a venire avanti, questo bambino ha ripreso il sorriso perché riusciva a fare ciò che voleva e quindi l'ho riportato sui campi piccoli, ha partecipato a tutti i raduni provinciali e regionali essendo il primo nella provincia di Messina. Questo bambino ha trovato il sorriso, ha trovato il suo tennis ed oggi, dopo averlo portato nel campo grande, ho capito che stavo commettendo sicuramente un grandissimo errore, cioè quello di farlo giocare subito nei campi grandi, subito con le palle dure, solo per rispettare la sua età. Secondo me ogni ragazzo ha bisogno dei suoi spazi, ha bisogno dei suoi tempi e il tennis è uno sport dove la premura non paga, la premura dei risultati, la premura della racchetta grande, la premura delle palline dure, no, secondo me dobbiamo stare molto attenti perché la fase che va a mio avviso dai 7 agli 11 anni è quella che poi forma veramente il giocatore, quindi questo è un invito che faccio a tutti i maestri, a tutti i miei colleghi ma anche ai genitori, attenzione a non avere premura con i ragazzi, questo è quello che mi sento di dire. Bene, qui infatti ti stavo appunto per aggiungere genitori ma mi hai anticipato perché questi sono consigli preziosissimi soprattutto per i genitori e che sono poi gli stessi appassionati e giocatori di tennis, quindi molto spesso il ruolo genitore appassionato diciamo esiste, è parallelo e quindi diciamo il genitore è, secondo me è un modo per riuscire a portare a conoscenza diciamo poter migliorare anche il livello di gioco dei suoi figli o di suo figlio, è quello appunto di confrontarsi con i maestri. Assolutamente, non è una cosa negativa a mio avviso per quello che interpreto io il tennis, far giocare un ragazzino di 10-11 anni ancora con delle palle mid, con il campo un po' più piccolo, perché lì secondo me lui riesce a esprimersi al meglio, riesce a esprimere il suo tennis. Portato un ragazzino un po' più piccolo in un campo grande non riesce a fare un ace, non riesce a fare un serve and volley, gli limitiamo il gioco, glielo cambiamo, gli trasformiamo l'idea tattica che lui può avere e questo secondo me è un errore grandissimo, quindi consiglio ai genitori che magari pensano che il proprio figlio ancora non è pronto per poter fare quello o quell'altro, diamo retta un po' più ai maestri che sicuramente hanno le intenzioni e le idee corrette a mio modo di vedere per far crescere il bambino nella maniera più opportuna. Riassunto per chi ci sta ascoltando, per i genitori, la fretta non paga e quindi con pazienza diciamo quello che mi sembra di capire dalle tue preziosissime parole, la pazienza nel futuro diciamo pagherà di più di portare un ragazzino attualmente di 9 anni da fondocampo con palline dure. Assolutamente, assolutamente diciamo, assolutamente. Perfetto, e invece la seconda sottodomanda sempre in questa sezione sul tuo metodo di allenamento, e dopo averti chiesto appunto a livello mentale come riuscivi ad applicarlo in pratica, se durante qualche tua lezione con i clienti individuali, quali sono i loro obiettivi, diciamo, se dovessi fare una classifica dei bisogni o delle necessità che loro vogliono soddisfare o i loro sogni si vorrebbero vedere realizzati nel loro miglioramento tennistico, non so, in percentuale cosa vogliono, cosa richiedono da te i clienti che si avvicinano a lezione individuale? Allora, partendo dal presupposto che io lavoro a Taormina, un posto prettamente turistico, quindi le mie lezioni individuali posso dire che si basano 60% turisti e 40% clienti del posto. Sicuramente i turisti vogliono divertirsi, è difficile trovare un turista che venga a Taormina e che si avvicina ad un campo da tennis e non sappia proprio giocare, quindi loro vogliono solo divertirsi. La cosa simpatica è che a volte trovi dei russi che ti chiedono se tu sei forte, se sai giocare, e poi beccano sistematicamente 6-0, 6-0, 6-0, quelli ti fanno ridere. I turisti vogliono sicuramente divertirsi e passare un'ora in spensieratezza. Per quanto riguarda i soci, sicuramente posso dire che la percentuale maggiore è quella di passare un'ora in spensieratezza, divertirsi. Però è pure vero che trovi le persone che si avvicinano al tennis anche in un'età, diciamo, un pochettino più avanzata, quindi possono essere 40-45 anni, e che cominciano a giocare. E sicuramente vogliono migliorare il loro tennis, si appassionano subito, vogliono seguirti, vogliono provare ad emularti, però sicuramente vogliono provare a giocare meglio a tennis, quello sì. Perfetto, e per quanto riguarda invece la terza domanda, volevo appunto sapere da te, se ci potevi raccontare una tua esperienza diretta, e se c'è stato, e ovviamente c'è stato e ne sono sicuro, perché e diciamo da quello che sta dicendo Mario, state cercando, appunto, state vedendo quale sia tutta la sua professionalità e l'esperienza pluriennale nel settore, e se c'è stato un ragazzo, una ragazza da te allenata che ha migliorato o che sta migliorando il suo tennis grazie al tuo metodo di allenamento, al tuo essere persona prima che essere maestro. Ma sicuramente spero di sì, bisognerebbe chiederlo ai ragazzi, però questo si riallaccia un pochettino alla prima domanda, quella delle aree. Io penso che l'area mentale sia la più importante. Ho avuto una ragazzina di 12 anni che da più piccola, quando aveva 9-10 anni, aveva un po', diciamo, la pressione sbagliata dei genitori che chiedevano subito risultati, e questa ragazzina piano piano stavamo rischiando di perderla, stava perdendo interesse. E quindi secondo me un bravo maestro, prima di insegnare un dritto e un rovescio, deve essere una persona che ti fa amare questo sport. E quindi con Maria Francesca, che è un ragazzo adesso del 2001, che è passata terza categoria da poco, abbiamo lavorato tanto sull'aspetto mentale. Figurati che a volte durante le ore di lezioni quello che facevamo era parlare e giocare, divertirci, proprio giocare, che sembra un termine scontato, no? Perché alla fine il tennis è un gioco, però probabilmente per lei non era un gioco. E secondo me la parola gioco deve equivalere a divertimento, innanzitutto. Se c'è quello, se c'è questo binomio, gioco uguale divertimento, poi partono tutte le altre cose. E forse lei proprio non si stava divertendo, quindi con il mio modestissimo metodo, che è stato quello di mettere al centro della ragazza il divertimento, capire che il tennis alla fine della fiera è un gioco, abbiamo trovato questa sorta di soluzione di sorridere durante il gioco, di fregarcene dei risultati, perché spesso l'errore che si compie è quello di pensare: ok, gioco a tennis, non ho risultati, non vado bene. Non è così. Secondo me è un percorso che deve fare piano piano un ragazzo, capire quali sono i suoi limiti, cercare di superarli insieme all'aiuto del maestro. E li abbiamo superati, ti ripeto, come ho detto prima, non lavorando sul dritto e sul rovescio, ma lavorando sulla felicità. Quando si sono felici bisogna essere felici. Se un giorno, questo è un consiglio che mi sento di dare a tutti i ragazzini, scendete in campo e non siete felici, non siete orgogliosi, no, non è la parola giusta, non siete felici di quello che state facendo, fermatevi e ditelo al maestro. Continuare a giocare col muso, continuare a giocare per dover dimostrare qualcosa a qualcuno, alla fine non paga. Alla fine prenderete la racchetta e la chiuderete nel borsone per sempre, la riprenderete quando poi sarete più grandi solo per passare delle domeniche al circolo. questo è quello che mi sento di dire. Verissimo, è la missione, mi sento di dire, di una vita intera, no? alla ricerca della felicità. C'è, cioè, il film di Will Smith, assolutamente. Che non è solo puntato nel tennis, ma riguarda proprio la vita ad ampio raggio, no? Quindi quando si dice che il tennis è una palestra per la vita, è appunto quello che sta dicendo Mario, riguarda. E quindi tutte queste parole mi avevano fatto riflettere molto anche riguardo a un altro argomento, perché io la penso assolutamente come te, Mario, al centro il divertimento del bambino o dell'appassionato, perché anche un ragazzo, un signore, una signora che si avvicina al tennis sui 30 e 40 anni deve assolutamente divertirsi, proprio è un must, diciamo. E quello che mi sento di dire a riguardo è sempre cercare di trovare un equilibrio, non so se concordi, tra il divertimento e comunque sia la concretezza nella prestazione, nel miglioramento della prestazione, perché concordo anche, mi spiego un po' meglio, Mario, concordo anche su quello che dice Julio Velasco riguardo sempre il bambino, che quando gioca lui è talmente tanto concentratissimo, che diventa talmente tanto serio, perché il suo obiettivo è quello di riuscire a portare a termine quel gioco e riuscire a vedere la realizzazione effettiva di quello che sta facendo. Quindi Velasco dice: quando un bambino sta giocando, lui è serissimo perché è concentratissimo, quando sta facendo ovviamente uno sport, perché ovviamente dopo si aspetta determinati tipi di risultati. Allora io sto sempre nel mezzo, quindi mi piace farli divertire, però parallelamente mi piace anche vederli ovviamente migliorare, assolutamente, così che assolutamente. Infatti quello che volevo dire io è che divertirsi non significa non impegnarsi, divertirsi significa fare le cose con il sorriso, farle con massima serenità, ma farla al contempo con l'attenzione giusta, quello sì. E mi fa piacere che hai citato Julio Velasco, perché sono un suo fan e mi piace l'aspetto soprattutto motivazionale che lui dà nelle sue conferenze, lo seguo tanto, certo. Quindi mi fa piacere che l'hai citato. Guarda, mi trovi pure d'accordo su Julio Velasco, non ci siamo messi d'accordo, su questa cosa. Non è stata un'intervista pilotata, qua lo possiamo dire, no, perché sennò sembra che facciamo comunella, veramente. Benissimo, quindi abbiamo affrontato tante tematiche con Mario, e l'ultima domanda che ti volevo fare, Mario, è appunto questa. Adesso, scendendo nel particolare del tuo circolo Taormina Sporting Club, soprattutto diciamo, scusa se ti interrompo, scendendo al sud, perché siamo a Taormina. Scendendo al sud, giustamente, perché stando a Taormina siamo scesi, e vediamo all'ultima domanda, appunto. E volevo sapere quanti soci ci sono, quanti ragazzi a scuola tennis, quanti maestri o collaboratori, in poche parole. Avrete già sentito l'atmosfera ridente e gioiosa di Mario, quindi questa domanda è quasi scontata, ovviamente, però che atmosfera si respira nella tua ridente città e nel tuo caloroso club? Ma guarda, mi dai un assist, potrei parlare un'ora del mio piccolo. Posso dirti che Taormina è un'isola felice. Taormina è un posto meraviglioso, invito tutti coloro che ti seguono, tutti quelli che ti seguono sul sito, sui social, invito a venire a Taormina. Taormina è un posto bellissimo che si affaccia sulla baia di Giardini Naxos, sotto le pendici dell'Etna. La nostra società sportiva, il Taormina Sporting Club, devi sapere che è la seconda società sportiva siciliana, è stata fondata nel 1925, e noi siamo un piccolo circolo, abbiamo tre campi in terra rossa, però si trova in una posizione strategica perché è sotto l'Etna, all'interno di un parco che è stato costruito dagli inglesi, perché durante la seconda guerra mondiale Taormina era una base tedesca che fu liberata dagli inglesi e dagli americani, e gli inglesi costruirono questi tre campi in terra rossa all'interno di questo parco. Abbiamo tre campi, come dicevo, abbiamo una scuola tennis di 60 ragazzini, considera che Taormina comunque, lasciando perdere il fattore turistico, quello predominante, è un paese di 8.000 abitanti, quindi è un paese veramente piccolo. Ovviamente durante l'estate si trasforma perché i turisti sono tantissimi. Abbiamo quattro figure professionali, tra cui io che sono maestro nazionale, il mio collega Roberto Moschella, anche lui maestro nazionale con cui lavoro da 10 anni, un'istruttrice federale di primo livello e un preparatore fisico. Abbiamo un 120 soci, facciamo tantissima attività. Devi sapere che nel 1954 qui a Taormina è stata giocata la Coppa Davis contro la Svezia, il grande Sir l'ha giocato nei campi del Taormina Sporting Club. Dopodiché facciamo tantissime attività, facciamo dei tornei estivi di doppio, facciamo delle manifestazioni social, facciamo ogni anno una rappresentazione vintage. L'anno scorso ci siamo vestiti tutti di bianco, abbiamo riportato il tennis nel tempo ed è stata molto molto carina. Sarebbe stata la prossima domanda. Sarebbe stata la prossima domanda, perché quell'evento mi era piaciuto talmente tanto che te lo l'hai visto, sì. Guarda, una giornata bellissima. Taormina secondo me può essere, per chi ci segue, un'ottima idea per passare una settimana, un fine settimana, e qui insomma si sta bene. L'aria è bellissima, il clima è stupendo, il mare è favoloso, si mangia benissimo, quindi più di questo non so che dirvi. Poi voglio dire, mettetevi d'accordo con Tiziano, vi darà qualche dritta, anche perché è il primo invitato che ancora deve venire a Taormina a farvi visita. Giusto. Ma adesso, con la scusa dell'intervista, prendi un impegno sia qui che sul tuo sito, dove dirai che verrai a Taormina a trovarmi. Prendo un impegno, lo scrivo nel post prima di pubblicare questa intervista, lo prometto. Prendo un impegno. L'hai promesso, eh? Sei attento. No, certo, è normale, l'ho promesso e quindi... Lo sai che da noi in Sicilia la parola conta molto, eh? No, lo so. Siamo uomini di parola. Lo so bene, quindi lo prometto, quando pubblicherò questo post, quindi a brevissimo, e metterò sopra il post giorno, data e ora di quando ti verrò a trovare allo Sporting Club Taormina. Vediamo, è una promessa. È una promessa. E bene, quindi no, quello riassumendo, io ho finito qua con le domande, ma quello che volevo far capire a tutte le persone appassionate che ci stanno ascoltando è appunto come, diciamo, Mario, che è un maestro nazionale della Federazione Italiana Tennis, racconti del suo lavoro e quindi anche della sua passione e del suo circolo di appartenenza con così tanto entusiasmo e così tanta energia. E questa è una cosa veramente molto rara da trovare, a mio modesto parere, perché non tutti i maestri sono soddisfatti della situazione o dell'organizzazione nella quale lavorano. Questo non vuole essere assolutamente una critica, ma anzi è un punto di forza, e per questo appunto io sono sicurissimo che Mario farà grandissime cose, continuerà a fare grandissime cose nel suo Sporting Club, perché appunto ha amore e passione per quello che fa e per la terra nella quale vive, e quindi questo è un valore aggiunto che lo fa lavorare ogni giorno, secondo me, ogni giornata, ogni ora, ogni istante della sua giornata, in maniera sorridente, ed è di beneficio sia a se stesso ma soprattutto ai clienti o agli appassionati giocatori che frequenta ogni giorno. Soprattutto c'è questa grandissima armonia, hai detto la parola bene, cioè hai detto una parola giusta, cerco di dare armonia e di stare sereno, perché insomma, come dicevo prima, è la testa quella che conta. Se c'è armonia in quello che si fa, la trasmette agli altri, e se le persone stanno bene nel circolo dove stanno, si crea una fortissima energia che ti fa venire voglia ogni giorno di più di fare il tuo lavoro, ma io direi la tua passione, perché io non lo considero il mio un lavoro. Le dico sempre che ho la fortuna di fare quello che ho sempre sognato nella mia vita, e per lo più mi pagano. Verissimo, verissimo, eh? È la cosiddetta empatia, no? Che si viene a creare questo scambio di energia tra le persone, e dopo viene tutto senza sforzi, no? In maniera del tutto naturale. E poi, visto che abbiamo citato Will Smith, Julio Velasco, adesso citiamo anche Bollettieri, agganciandomi appunto a quello che hai detto sul lavoro. Lui stesso dice che quando la gente gli chiede, e tu stesso l'avrai sentito ai simposi dove eravamo insieme anche a Roma 2 anni fa, sulla Super Tennis Arena, sulla Super Tennis Arena, e quando la gente gli chiede: ma tu tu hai lavorato, stai lavorando? Ho detto no ragazzi, io non lavoro, non ho lavorato nessun minuto della mia vita, perché questa per me è una passione. Bello. La considero una passione, quindi... non ho mai lavorato in tutta la mia vita, e, insomma è Nick Bollettieri ragazzi, quindi e ho detto tutto. E... Mario, se volevi aggiungere qualcosa e... No, voglio semplicemente dire che insomma auguro a te, a tutti i maestri, insomma, di passare un maggio all'insegna del tennis. Adesso abbiamo i nostri internazionali d'Italia fra poco, di passare una bella estate tutti, e insomma di rimettersi in marcia e prepararsi per una nuova stagione, però prima di tutto di passare una bellissima estate a tutti, ai maestri, a tutti i ragazzi e a tutti quelli che ci seguono. Perfetto, questo è un grandissimo augurio, perché questo, almeno a mio modesto parere, è la stagione che preferisco, diciamo, tennistica che preferisco, quella che inizia ad aprile e diciamo culmina poi con Roland Garros. Non so, da giocatore a me piace molto la Terra Rossa, ma mi piace... È mai Terraioli, noi facciamo qualcosa. Esatto, mi piace molto la Terra Rossa, infatti sono qui col televisore abbassato che sto vedendo Monte Carlo, c'è Marre che sta giocando, quindi insomma questa è una stagione strepitosa. E... Bello. Mario, ecco. Altro bellissimo posto Monte Carlo, altro bellissimo posto Monte Carlo, che magari dopo Taormina, visto che mi hanno raccontato tutti che ci sono somiglianze con Monte Carlo, l'andremo a visitare insieme. Sì, ce ne sono tantissime, perché come vi dicevo è un piccolo promontorio sul mare, quindi anche noi abbiamo i campi che affacciano sul mare, ci assomigliano molto Taormina e Monte Carlo, come logistica ci assomigliano molto. Beh, ci sei mai stato a Monte Carlo? Purtroppo no, purtroppo non ci sono stato, mi piacerebbe andarci, purtroppo ancora non ci sono stato. Bene, quindi altra promessa che questa volta io rivolgo a te, visto che io sono già stato al Country Club a vedere il torneo, il Master 1000, quando io vengo a Taormina prenderai la promessa, ti farai carico di questa promessa e andremo a trovare insieme il Country Club di Monte Carlo. Ecco, mi sei preso subito la rivista, però prima devi venire tu, Prima vengo io, promesso. Mario, io siamo alle battute finali, quindi ti ringrazio per il tempo che hai deciso di dedicarci e parlo... Grazie a voi per il tempo che mi avete concesso, è stato veramente un piacere, sono molto, diciamo, orgoglioso di aver partecipato alla tua trasmissione, sono molto contento di aver parlato di tennis con te e con tutte le persone che ti seguono, e spero di aver dato nel mio piccolo... qualche piccolo consiglio utile per chi ascolterà questa intervista. Sei stato sicuramente preziosissimo, e parole di una persona, un maestro di grandissima esperienza, ecco, quindi quello che dicevo all'inizio, io sono sicuro che tutte le persone che ci stanno seguendo l'abbiano riscontrato nelle tue parole. Io ti auguro tutto il meglio per i tuoi progetti futuri e presenti, e ti invito a continuare a seguire anche le prossime puntate del podcast Sprigione il tennista che è in te, perché ci saranno tanti altri maestri e coach proprio come te, che hanno tante, molte cose ed esperienze uniche da raccontare, proprio perché ognuno di noi ha una propria unicità e quindi è unico e speciale a suo modo, e quindi poter continuare a crescere in questo meraviglioso mondo anche utilizzando lo strumento internet. Quindi io ti faccio... Assolutamente, ascoltando gli altri si cresce tantissimo. Io volevo aggiungere solo una cosa, diciamo, se certo, posso, solo vai pure. Volevo dire che sicuramente prima che verrai tu a Taormina ci vedremo a Cervia, perché devi sapere che io il 1 settembre di quest'anno mi sposo e il giorno 3 sarò a Cervia a fare i campionati italiani over 35, quindi o mi allocchiamo la futura moglie e mi lascerà subito, oppure... Ci vediamo a Cervia. Allora ci vedremo sicuramente a Cervia, e comunque complimenti per questa notizia che sto prendendo in diretta proprio ora, e non lo sapevo, giuro. Quindi ti faccio doppio in bocca al lupo allora, sia per la tua carriera professionale che per la tua vita sentimentale. Soprattutto per quella sentimentale. E grazie mille Mario e un abbraccio. Grazie Cristiano, un abbraccio a tutti e buon tennis. Un saluto a tutti e continuate a seguire il podcast Sprigiona il potere che è in te, con l'augurio di una meravigliosa giornata e play tennis with passion.